Resistere, resistere, resistere. Il Festival delle Resistenze Contemporanee e Radio 24 vi accompagnano con interviste, storie e approfondimenti in un percorso per aiutare giovani, aziende e società a resistere alla crisi. Il Festival delle Resistenze vi aspetta a Bolzano dal 25 aprile al 1 maggio. Se anche voi avete una storia da raccontare, inviatela a voisietequi@radio24.it. Il 25 aprile Matteo Caccia racconterà le vostre storie in diretta alle 16. Info su radio24.it e festivalresistenze.it.